Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Consiglio dei Ministri hanno stanziato, guarda caso, ieri 25 milioni di euro per le alluvioni in Emilia-Romagna della primavera scorsa. Dai, adesso come se in Emilia-Romagna la gente votasse con l'anello al naso. E si aggira per le nostre strade, le vostre strade, per fare domande ai citofoni. Se lei è uno spacciatore, gli diciamo noi non abbiamo paura. Se vogliamo aprire il capitolo delle domande, prima, rispondi te, che fine hanno fatto i 49 milioni che sono scomparsi degli italiani? Insomma, care ascoltatrici, cari ascoltatori, inevitabilmente le ultime stoccate reciproche tra il leader della Lega Salvini e il segretario del Partito Democratico Zingaretti a un giorno e mezzo più o meno, siamo lì dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Si vota domenica e finalmente, domenica dovrebbe finire la campagna elettorale, anzi in queste ore, però vedrete poi quello che succederà domenica e quindi i giorni a seguire, che ovviamente con Radio 24 e con Effetto Notte seguiremo. Quindi parleremo naturalmente questa sera del rush finale di questa campagna elettorale, poi gli sviluppi sempre legati all'allarme coronavirus. Ci sarebbero due casi accertati in Francia per quanto riguarda l'Europa, un caso sospetto a Parma, ma poi dopo faremo la sintesi, sentiremo il commento di una della portavoce dell'OMS, dell'OMS Europa e poi un esperto virologo. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda l'inchiesta per l'omicidio di Luca Sacchi. Vi ricordate lo scorso 23 ottobre a Roma? Si parla di un processo che già potrebbe esserci il 31 marzo. Poi c'è il meteo, come al solito, venerdì, per capire che fine settimana avremo. Non anticipo nient'altro, altrimenti vi dico già tutto all'inizio, ma tra poco c'è la sintesi della giornata, poi gli approfondimenti con gli ospiti. Per i vostri commenti, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, li potete scriverli comodamente oppure inviateli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Partiamo, allacciate le cinture. Elezioni regionali, con gli ultimi comizi si chiude questa sera la campagna elettorale per il voto in Emilia-Romagna e Calabria. Il virus cinese, sono 26 le vittime in Cina, tante le città isolate, 41 milioni di cittadini coinvolti. Confermato un secondo caso negli Stati Uniti e due in Francia, caso sospetto a Parma. L'omicidio di Luca Sacchi, giudizio immediato per i sei indagati, compresa la fidanzata Anastasia. Il processo inizierà il 31 marzo. Legittima difesa, assolto l'oste di Lodi che uccise un ladro. Sentenza della Cassazione, ai rider le tutele del lavoro subordinato, è stato respinto quindi il ricorso di Fudigno contro 5 ciclofattorini. Sanremo, dopo le polemiche sulla presenza di un cantante che in una canzone di due anni fa istigava al femminicidio, Loredana Bertè chiede di non dare il premio della critica, intitolato a sua sorella Mia Martini, a chi canta testi violenti. Calcio, in campo la Serie A maschile con Brescia-Milan. Partiamo quindi dalla imminente chiusura di questa lunga campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica. Il presidente del Consiglio Conte minimizza, dice non è un voto sul governo, mentre il leader della Lega Salvini punta alla vittoria per chiedere la fine anticipata della legislatura. Regionali e tenuta del governo, le preoccupazioni nella maggioranza sono soprattutto per il voto in Emilia-Romagna, ma il premier Giuseppe Conte rassicura: nessuna conseguenza sull'esecutivo. Qui non si vota per il governo ed è assolutamente improprio pensare che la votazione della comunità emiliano-romagnola e calabrese possa essere la votazione offerta all'azione di governo. Da Grillo arriva il ringraziamento a Luigi Di Maio per quello che ha fatto e che farà per il movimento. Il reggente Vito Crimi va a Cesena, mentre Nicola Zingaretti per il PD va in Calabria per sostenere il candidato Pippo Callipo. Oltre al taglio del cuneo, parla di odio dopo la scritta di Mondovì contro gli ebrei. I moderati, dice Zingaretti, non possono tacere, non si può assecondare l'estremismo che viene dall'altro campo. Intanto il candidato di centrosinistra e governatore uscente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, fa tappa a Marzabotto, luogo simbolo della resistenza, dove intona Bella Ciao, comizio finale a Forlì. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni chiudono assieme a Ravenna la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna, un voto sul quale il centrodestra punta per dare una spallata al governo giallorosso. Salvini scommette su una vittoria della candidata della coalizione, la leghista Lucia Borgonzoni. Stiamo già lavorando alla sua squadra, dice il leader del Carroccio. Sono felice perché sono convinto che domenica raccoglieremo quello che abbiamo seminato. non vado al di là dei caffè perché non mi piace scommettere, però li avevo scommessi in Umbria, li ho scommessi qua in Calabria e sono convinto che sia qua che in Calabria vinceremo e non di poco. A dirsi fiduciosa sull'esito del voto in Emilia-Romagna è anche la leader di Fratelli d'Italia, Meloni. Penso che qui Fratelli d'Italia crescerà. Sono troppo scaramantica per dirvi di quanto, ma sono certa che sarà il risultato di Fratelli d'Italia determinante anche per il risultato complessivo della coalizione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo al virus cinese. Sono 26 al momento le vittime in Cina, tante le città isolate, sono 41 milioni i cittadini coinvolti. Confermato un secondo caso negli Stati Uniti, due in Francia. C'è un caso sospetto a Parma, ma probabilmente come quello di due giorni fa a Bari potrebbe rivelarsi in realtà soltanto un sospetto e invece non collegata l'influenza di questa donna di Parma che rientrava da Wuhan al coronavirus. Poi ci aggiorneremo con la portavoce Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e un virologo. Intanto la Cina sta predisponendo misure eccezionali per arginare il possibile contagio. Siamo all'estero, col terremoto avvenuto in Turchia ci sono stati almeno 4 morti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito questa sera la provincia orientale turca di Elazig. Lo riferisce il ministro dell'interno di Ankara che inizialmente aveva dichiarato di non avere notizie di vittime. Stati Uniti, fin dall'inizio della mia presidenza, ha detto Trump, mi sono impegnato a difendere le famiglie, anche i bambini non nati che non hanno mai avuto un difensore così forte alla Casa Bianca. L'ha detto appunto il presidente americano Donald Trump intervenendo alla 47esima marcia contro l'aborto a Washington, la prima partecipazione della storia di un presidente. L'intervento, mentre in Senato, va in scena l'ultimo giorno delle argomentazioni della difesa nel processo per l'impeachment, per la messa in stato d'accusa contro Trump. Di nuovo in Italia con la cronaca e l'omicidio di Luca Sacchi, la Procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i 6 indagati nell'inchiesta sull'omicidio di Luca Sacchi. Si tratta dei due autori materiali dell'aggressione, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, di Anastasia Klimenik, fidanzata di Luca, e Giovanni Princi. Questi ultimi sono coinvolti nella parte di indagine sul tentato acquisto di sostanze stupefacenti. Giudizio immediato anche per Marcello De Propris, accusato di concorso in omicidio, e il padre Armando, accusato di detenzione di droga. A Del Grosso, Pirino e De Propris la procura contestava l'aggravante della premeditazione e nel corso di questa puntata ci sarà poi modo di fare il punto della vicenda che sin dall'inizio, vi ricordate, ha avuto molti punti oscuri. Un altro caso di cronaca nera, uccise un ladro nel suo locale, è stato assolto l'oste Mario Cattaneo, la procura aveva chiesto 3 anni. Dal suo fucile era partito il colpo che il 10 marzo del 2017 aveva raggiunto la schiena e ucciso Petre Ungureanu, 32enne di origini rumene. Nel pomeriggio Mario Cattaneo, oste 70enne di Casaletto Rodigiano, è stato assolto in primo grado dal Tribunale di Lodi dell'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Il PM, nella requisitoria, aveva chiesto una condanna a 3 anni di reclusione. Il cuoco del Rodigiano si è sempre difeso dicendo che lo sparo che aveva colpito Ungureanu mentre stava fuggendo era partito accidentalmente dalla sua arma mentre cadeva a terra durante una colluttazione con un altro dei complici che quella notte si erano introdotti nella proprietà di Cattaneo per derubarlo. Per Matteo Salvini la soluzione sarebbe frutto della nuova legge sulla legittima difesa. A smentire a stretto giro il leader leghista e il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, secondo cui la nuova legge non ha in realtà avuto rilevanza nella sentenza. Finalmente giustizia è fatta, il commento di Giorgia Meloni e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una scritta antisemita è comparsa sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbrück nel 1944, una delle grandi voci dell'orrore dei lager. La scritta Juden hier, qui ci sono gli ebrei, come nelle città tedesche durante il nazismo, è comparsa nella notte a Mondovì, in provincia di Cuneo, in Piemonte, sulla porta della casa dove la donna ha vissuto sino alla morte nel 1996. Condanna per il gesto da tutte le forze politiche. A proposito della giornata della memoria, ci sarà il 27 gennaio, il gruppo 24 ore per la giornata della memoria ha varie iniziative per i lettori, approfondimenti su carta e online. Per il sito domenica ci sarà il dossier online con la mappa aggiornata in tempo reale di tutte le pietre di inciampo in Italia e poi ci sono naturalmente i reportage di Radio 24 e la domenica sempre sulle 24 ore l'inserto culturale del giornale dedica un approfondimento speciale nella storia di Copertina che indaga come si sia arrivati all'aberrazione dell'antisemitismo. L'imprenditore svizzero Stefan Smidaini è stato rinviato a giudizio a Vercelli per il caso Eternit Bis. Il processo si aprirà in corte d'assise a Novara il 27 novembre. Smidaini sarà chiamato a rispondere di omicidio volontario in relazione alla morte di 392 persone provocata, secondo l'accusa, dall'amianto lavorato nello stabilimento di Casale Monferrato, vicino Alessandria, della multinazionale. Oggi Smidaini ha detto odio l'Italia, è un paese fallito. Occupazione Riders. Ai ciclofattorini delle consegne a domicilio vanno applicate le tutele del lavoro subordinato, come previsto dal Jobs Act, nella forma ibrida delle collaborazioni organizzate dal committente. Questo l'ha stabilito la Cassazione, respingendo il ricorso di Fudigno nel contenzioso tra Foodora e 5 Rider di Torino. Il ministro del lavoro, la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, ha detto: la sentenza della Cassazione ci conferma che con il recente intervento normativo che abbiamo fatto nel decreto crisi siamo andati nella giusta direzione. Mentre la segretaria confederale della CGIL, Tania Scacchetti, ha dichiarato che i rider devono avere le stesse tutele dei lavoratori subordinati. Nicolò Montesi, presidente dell'Associazione Nazionale Autonoma dei Rider, però ha detto: noi chiediamo maggiori tutele, ma ci dissociamo dal definirci adesso come in futuro dei subordinati, dipendenti subordinati. Sul significato comunque della sentenza, Marco Mancini ha sentito il giuslavorista Giampiero Falasca. Il passaggio più significativo della sentenza, a mio avviso, è uno. Secondo la Cassazione, i riders, pur restando collaboratori coordinati e continuativi, hanno diritto allo stipendio dei lavoratori dipendenti. Quindi la Cassazione non prende posizione sulla qualificazione del rapporto. Dice semplicemente: c'è una COCOCO, una collaborazione coordinata e continuativa, questa collaborazione è soggetta al potere organizzativo del committente, allora scatta il diritto alla retribuzione come se fossero lavoratori subordinati. È una posizione equilibrata, non li trasforma in lavoratori dipendenti, ma non li priva del tutto delle tutele dei lavoratori di quel tipo. E poi Festival di Sanremo, l'appello di Loredana Bertè che dice: chiedo ai giornalisti della sala stampa dell'Ariston di escludere a priori una possibile candidatura al premio della critica Mia Martini di qualsiasi artista che promuova attraverso i suoi testi violenza fisica o verbale verso le donne. È l'appello lanciato sui social appunto da Loredana Bertè, che pur senza nominarlo fa riferimento a Junior Kelly e alle polemiche scatenate in particolare da un suo brano del 2017 dove istigava al femminicidio. Mia sorella Mia Martini, ha detto la Bertè, è stata per anni vittima di bullismo verbale, non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome venisse associato a certi soggetti, scrive l'artista nel post. Per chiudere il calcio, Serie A maschile con in campo Brescia Milan, su questo ci aggiorna Giovanni Capuano. Caro Giovanni, buonasera. Eccomi Roberta, buonasera. 28 minuti che sono trascorsi nel corso del primo tempo allo stadio Rigamonti di Brescia. Parziale tra Brescia e Milan è ancora fermo sullo 0-0. Questa è una serata speciale per i rossoneri, che vengono da 3 vittorie consecutive, Coppa Italia compresa, e se dovessero riuscire questa sera nell'impresa di sbancare Brescia, tornerebbero almeno per 48 ore, in attesa del risultato del Cagliari a San Siro, in zona Europa, perché salirebbero al 6° posto. Dunque, dicevamo, 29esimo minuto, il parziale 0-0. Fin qui è una partita molto equilibrata, difficile, è una partita che si gioca soprattutto a centrocampo. Il Milan ha avuto 2 occasioni, al 17esimo con Bennacer che ha concluso dal limite con palla che ha sfilato il palo di Joronen, e poi 2 minuti più tardi con Zlatan Ibrahimovic, il traversone di Leao. Ibrahimovic è saltato più alto di tutti, pallone forse che è stato colpito anche con la schiena dal difensore che lo marcava, palla che era indirizzata all'incrocio dei pali, ma è stato molto bravo il portiere del Brescia Joronen ad allontanare l'insidia. È stato poi ammonito Sabelli del Brescia per un fallo su Bennacer. Partita però che, come dicevamo, si sta combattendo molto a centrocampo. È una serata fredda, c'è il tutto esaurito allo stadio di Brescia. Questo è l'effetto Ibrahimovic, svedese che è arrivato nel mercato di gennaio ai rossoneri, li ha risvegliati e ha risvegliato anche l'interesse intorno alle partite esterne del Milan. Grazie Giovanni Capuano, ci interesseremo allora anche dopo naturalmente per aggiornamenti. Adesso mi fermo brevemente per aggiornare invece chi si sta muovendo su strade e autostrade, in modo che tra poco ci troviamo per tuffarci nel pieno di alcuni argomenti, di alcuni temi che sono in primissimo piano in queste ore con gli ospiti. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure inviateli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Molte le notizie, come sempre, anche in quest'ultima puntata della settimana di Effetto Notte, molti temi adesso da affrontare e da chiarire. Roberto Giordano sempre con voi per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Naturalmente ci concentreremo in particolare sulla politica, ma come dicevo ci sono anche gli sviluppi per quanto riguarda il coronavirus e l'omicidio di Luca Sacchi. Vi ricordo molto velocemente anche quali sono i titoli principali per questa giornata. Elezioni regionali, con gli ultimi comizi si chiude questa sera la campagna elettorale per il voto in Emilia-Romagna e Calabria. Il virus cinese, sono 26 le vittime in Cina, tante le città isolate, 41 milioni i cittadini coinvolti. Confermato il secondo caso negli Stati Uniti e due casi in Francia, mentre sembra soltanto un sospetto il caso di Parma. L'omicidio di Luca Sacchi, capiremo quali sono gli sviluppi dell'inchiesta. Legittima difesa, è stato assolto l'oste di Lodi che aveva ucciso un ladro. Sentenza della Cassazione, ai riders le tutele del lavoro su subordinato, è stato respinto quindi il ricorso di Fudigno contro 5 ciclofattorini. A Sanremo l'appello di Loredana Bertè, in vista di Sanremo che inizia a febbraio, dice, dopo le polemiche sulla presenza di un cantante che in una canzone due anni fa istigava al femminicidio, dice: non date a voi giornalisti della critica il premio intitolato a mia sorella Mia Martini a chi canta testi violenti. Poi per il calcio avete sentito l'aggiornamento della partita di Serie A maschile con Brescia Milan. Il Consiglio dei Ministri hanno stanziato, guarda caso, ieri 25 milioni di euro per le alluvioni in Emilia-Romagna della primavera scorsa. Dai, adesso come se in Emilia-Romagna la gente votasse con l'anello al naso. E si aggira per le nostre strade, le vostre strade, per fare domande ai citofoni. Se lei è uno spacciatore, gli diciamo: noi non abbiamo paura. Se vogliamo aprire il capitolo delle domande, prima, rispondi te, che fine hanno fatto i 49 milioni che sono scomparsi degli italiani? Insomma, ci stiamo avvicinando alla fine, tra comizi, colpi di scena, dimissioni, citofoni, accuse reciproche, lacrime e sardine, siamo finalmente arrivati alle battute finali di queste infinite indiavolate campagne elettorali, almeno per il momento, perché poi ce ne saranno varie, fino a maggio e giugno ci saranno altre elezioni regionali. Comunque, domenica si vota per eleggere i presidenti di regione, dell'Emilia Romagna e della Calabria, quindi elezioni regionali per l'appunto, ma che sono state trasformate nel corso di questa campagna elettorale anche in un test per la politica nazionale. La maggioranza di governo continua a negare che il risultato possa avere effettivamente delle ripercussioni sull'esecutivo, mentre il centrodestra continua a ribadire che le avrà, ribadisce il contrario. Anzi, Giorgia Meloni per esempio ha detto in serata in comizio: se ci votate lunedì citofoneremo a Conte e gli chiederemo di fare gli scatoloni, dice la Meloni. Io però per il momento citofono a Barbara Fiammeri. Barbara, rispondi? Pronto, ci pronto, sei? sono qui. Meno male. Aiutaci tu intanto, allora ricordiamo i nomi principali degli sfidanti in queste due tornate elettorali. Allora, in Emilia Romagna è sfida, dicevo, i principali candidati naturalmente tra il governatore uscente sostenuto dal PD Stefano Bonaccini e la candidata di Lega e Centrodestra che è Lucia Borgonzoni. E poi c'è in quella che da 70 anni è considerata la Regione Rossa anche il candidato del Movimento 5 Stelle, perché si è presentato in modo distinto dal PD nonostante siano alleati di governo, che è Simone Benini. Per la Calabria invece si sfidano Filippo Callipo per il PD e Centrosinistra, Iole Santelli candidata di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia, e poi Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle. Allora, il centrodestra intanto ha chiuso, sta chiudendo la campagna elettorale in Emilia-Romagna, a Ravenna esattamente, con Salvini, Berlusconi e Meloni sul palco, mentre il PD con Zingaretti in Calabria. Qualcuno ha trovato un po' strano che il Partito Democratico, quindi il segretario del partito, chiudesse la sua campagna elettorale in Calabria anziché in quella che è considerato il voto più cruciale, l'Emilia-Romagna. Tu come la vedi, Barbara? Ma secondo me è stato fatto per evitare, come dire, di confermare la strategia portata avanti da Salvini e devo dire contrastata male dai suoi avversari, ovvero che il voto in Emilia è un voto che avrà ripercussioni a livello nazionale. Quindi la cosiddetta depoliticizzazione del voto emiliano. Però insomma il PD si è svegliato un po' tardi, non era facile perché Salvini sostanzialmente in Emilia, noi Noi non sappiamo cosa pensa la Lega dell'Emilia Romagna, noi sappiamo cosa pensa Salvini sugli immigrati, sull'economia, però è stata fatta una campagna, del resto lui stesso ha parlato di un referendum, no? Come tra Repubblica e Monarchia rispetto al voto emiliano, quindi insomma è molto politico. E proprio a questo proposito, scusami Barbara, visto che l'hai detto, io ti volevo chiedere anche quali sono stati i temi regionali che più ti hanno colpita. Tu hai detto che è stata soprattutto campagna elettorale, diciamo, di da parte portata della nazionale. Centrodestra, da parte del centrodestra sì, cioè non c'è nulla che io ricordi, ma era anche, devo dire che era anche complicato, insomma, perché dalla stessa destra, magari a microfoni spenti, cioè c'è un riconoscimento del buon governo dell'Emilia che poi è dato dai numeri, insomma, è oggi la regione che ha il PIL più forte, la regione con il minor numero di disoccupati, cioè ha tutta una serie di numeri a suo favore che quindi chiaramente se vai sul terreno, no, del governo locale, insomma, dice era difficilmente attaccabile, a parte Bibbiano, no, insomma, che abbiamo però sentito. Lo devi attaccare appunto su temi locali e diventa più difficile rispetto invece a un governo che fa acqua un po' da tutte le parti, con una maggioranza che è quotidianamente si sfalda e si rincolla il giorno dopo, e quindi è più facilmente aggredibile. Poi Salvini, insomma, l'obiettivo principale è la caduta del governo. Per lui anche per lui questa è una sfida importante, cioè perché se dovesse perdere in Emilia la regione rossa sarebbe un bel colpaccio, insomma. No, se lui dovesse perdere, secondo me si apre una discussione bella accesa dentro il centrodestra e forse anche dentro la stessa Lega. Mentre dall'altra parte le conseguenze sono molto più importanti, nel senso che avrebbero una ricaduta come dimensione di sul governo, perché, dici. Perché sì, perché sul governo. Insomma, io sinceramente alle parole di Conte, allo state sereni... non ti fidi mai, vabbè. Allora l'hai citato, ma sentiamolo Conte che dice che le regionali non influenzano il governo. Qui non si vota per il governo, ed è assolutamente improprio pensare che la votazione della comunità emiliano-romagnola e calabrese possa essere la votazione offerta all'azione di governo. E poi Conte dice, si chiama democrazia parlamentare, quella che una volta che viene eletto il Parlamento, insomma, va avanti, non è che ogni poco si vota o si mette in discussione. Sentiamo. Dottoressa, si chiama democrazia parlamentare, funziona così. O si va a votare ogni mese, ogni sei mesi, per creare una perfetta rispondenza del Parlamento e quindi dei governi a quelli che sono i sondaggi, ma non credo perseguibile, oppure bisogna accettare il fatto che quando si forma un Parlamento e si formano i governi vanno in Parlamento e ricevono fiducia. Quindi dice, non è un referendum nazionale, cerca anche di frenare un po' un pessimismo diffuso, forse nel governo, nella maggioranza di governo, negli alleati. Barbara, Conte? Ma sì, Conte può dire, Conte è giusto che dica quello che sta deve dicendo. Deve dire questo. Lo deve dire. Dopodiché ricordiamo anche che le stesse parole le diceva prima delle europee, cioè diceva che non sarebbero state un voto che avrebbe avuto effetti sul governo. Come è andata a finire l'abbiamo visto, no? Cioè, due mesi dopo il governo neanche due mesi dopo il governo non c'era più. Quindi secondo me questi ragionamenti lasciano un po' il tempo che trovano. Io penso che comunque vada, questo voto invece sarà influente. Volevo sottolineare quanto si sia parlato poco invece dell'altra regione al voto, la Calabria, ed è un paradosso, perché mentre l'Emilia appunto è assieme alla Lombardia, al Veneto, la locomotiva d'Italia, la Calabria è in grave difficoltà. Barbara, però prima di spostarci sulla Calabria, allora sentiamo un passaggio della candidata del centrodestra Borgonzoni e poi un passaggio del presidente uscente della regione Emilia-Romagna, candidato del PD, Bonaccini. Prego. Forse è la prima volta che il centrodestra, in modo allargato, perché ci sono anche due liste civiche, va unito, compatto, verso quello che io credo sarà una vittoria e verso la liberazione di fatto dell'Emilia Romagna da un sistema che ormai si è inceppato, che è qua da 50 anni. Noi resteremo disponibili al confronto anche il giorno dopo, perché non è vero che sono o siamo tutti uguali. Nessuno è uguale a nessun altro, l'intelligenza ci serve per distinguere, per vedere anche al di là del nostro naso. Oh, dicevi quindi, questa è Emilia Romagna, passiamo alla Calabria che diciamo ha sofferto un po' del protagonismo di Emilia Romagna. Prego, sì. No, dicevo questa battuta di Bonaccini, no? Noi siamo aperti al confronto. Chiaramente lui ha tutta la campagna elettorale che dà aperture, perché la speranza di Bonaccini è soprattutto nel voto disgiunto. Il Movimento 5 Stelle, dici? Che come dire... De 5 Stelle, ma secondo me non solo De 5 Stelle, cioè ti arrivo a dire anche di settori del centrodestra, nel senso che della serie votate il partito che volete, ma poi sul governo della regione votate me. A questa speranza, dici Bonaccini? Beh sì, penso che e questo è difficilmente quantificabile anche dai sondaggi, insomma. Invece per appunto andando sulla Calabria è una regione che ha molte più difficoltà, molte più difficoltà è un eufemismo rispetto alla distanza abissale che c'è tra la Calabria e l'Emilia Romagna, e noi tutti, compresi noi giornalisti, invece di occuparci di più della Calabria ci siamo occupati della... Lo stesso Salvini, no? Pensiamo per esempio alla storia del famoso citofono. Mi sarei aspettata che un ex ministro dell'interno, invece di andare a suonare i citofoni di sedicenti pusher 17enni, andasse a suonare i campanelli di famiglie andranghetiste che quella droga portano in Emilia Romagna e Lombardia, tanto per essere chiari, perché grandi traffici di droga sono documentati da sentenze passate in giudicato. Moltissimo anche in Lombardia, certo, poi in tutte le regioni. È l'andrangheta che la porta nel nord Italia, e proprio Bologna è un primo importante scalo, no, di smercio. Quindi mi sarebbe piaciuto che l'ex ministro dell'interno avesse fatto una visitina anche da quelle parti, dove in alcuni posti ancora si fa l'inchino di fronte a qualche famiglia andranghetista. Chiusa parentesi. Però appunto è il paradosso italiano. Vari lo hanno accusato di questo, Fabio Volo tra i primi, no, come scrittore eccetera, poi lui ha risposto: ma io invece ho confiscato tanti beni ai mafiosi. Sì, però andare a suonare il campanello di un andranghetista credo più pericoloso, che sia qualcosa, dici, di un po' diverso di andare a suonare un campanello di un sedicente pusher 17enne. Vedevo poco come fa dire, anche sull'impatto, no? Vedevo poco fa il 17enne che ha detto: adesso tutti mi trattano come uno spacciatore. Un'agenzia di poco fa che vedevo qua dalle agenzie dell'ANSA. Prego Barbara. Sì, ma no, appunto dicevo, rispetto a questa vicenda, ora al di là del fatto, la cosa che a me ha toccato in particolare è che cioè, secondo me bisogna colpire il manico, è inutile che vai a prescindere da questo ragazzo, è inutile che fai propaganda con l'ultima ruota del cioè con la parte finale del della filiera, dici? Che anche se spaccia comunque, ma è chi invece porta la droga nelle piazze, cioè il potere nelle piazze economico dello spaccio, e lì dovresti andare. E secondo me un leader politico, che sia Salvini, che sia Zingaretti, che sia Di Maio, se possiamo ancora dire Di Maio leader politico, staremo a vedere, anche bene a fare visitine altrove, e appunto in Calabria, dove la situazione direi è emergenziale sia sul fronte della sicurezza, dell'ordine pubblico, della criminalità organizzata, nonché della disoccupazione, della mancanza di investimenti, eccetera. Che è lunga storia comunque lunga storia quella della Calabria, al di là di questi governi o di questi leader. Barbara Fiammeri, a questo punto quindi atteniamoci a quello che succederà domenica. Staremo a vedere, lunedì sarà un altro giorno, io a questo punto ti saluto. Puoi andare Buonasera a citofonare a chi vuoi tu intanto, eh? Bene? Libertà di citofono. Grazie Barbara Fiammeri, ciao Barbara. E qui ci fermiamo brevemente con una pausa di respiro, di riflessione. Voi potete continuare con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, eccetera, eccetera. Vedo vari commenti politici, questo ascoltatore che dice, chiedi a Barbara Fiammeri se si può governare senza una laurea. Insomma, questa cosa l'ho vista varie volte, eh. Adesso chiudiamola definitivamente. Allora, lo dico da laureata, quindi al di sopra di ogni sospetto, per governare, per fare la carriera politica non è necessario essere per forza laureati, l'importante è essere competenti e possibilmente onesti. Torno ratta come la folla. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora composta e suonata Roberta Giordano per voi tutte le sere dalle 21 alle 22, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Poi vedete come a seconda delle angolazioni da cui si vedono le cose, come le cose stesse possono assumere tutt'altro significato. Allora, c'è qualche messaggio di chi dice ah, si vede che la commentatrice politica ce l'ha con Salvini, mentre quest'altro ascoltatore Paolo scrive: cara Roberta, come mai Salvini e Borgonzoni avevano un audio perfetto di quelli che hai fatto passare, mentre Zingaretti e Bonaccini no? Lì cosa ci posso fare se gli audio alcuni erano buoni? Dipende da dove sono stati presi e come sono stati presi al momento. Quindi uno che accusa da una parte, quello che accusa dall'altra. Poi, come se non bastasse, mentre rispondevo a Barbara Fiammeri delle sue critiche alle varie citofonate che Salvini ha detto di aver confiscato i beni mafiosi, allora un altro ascoltatore dice, anzi Vanessa: la Raggi ha confiscato i beni alla mafia, non Salvini, informate come si deve, siete giornalisti o cosa? Dice, insomma, va bene, vedete che anche questa sera abbiamo raggiunto la par condicio. Direi di spostarci su tutto altro argomento, cioè il virus che viene dalla Cina. Stiamo seguendo tutti i giorni, tutte le sere, il virus è arrivato, vi spiegavo ieri, almeno secondo gli esperti cinesi, agli esseri umani dai serpenti, da due tipi di serpenti, il bungaro fasciato, il cobra cinese, perché è nel loro organismo che un virus proveniente dai pipistrelli si è ricombinato geneticamente con un virus simile, tipico dei serpenti, dando origine poi a questo coronavirus 2019 NCoV, contagioso appunto per gli esseri umani. Allora, l'allarme virus fa isolare praticamente la Cina, ci sono milioni di persone isolate con uno stop al turismo, blocchi dei trasporti pubblici, insomma la Cina che sta rispondendo sia in modo molto trasparente rispetto al passato, sia con misure senza precedenti contro questa emergenza. Nel giorno del Capodanno lunare, Pechino ha disposto la chiusura anche di alcuni tratti della Grande Muraglia e poi lo stesso presidente Xi Jinping ha voluto che l'Esercito Popolare di Liberazione inviasse 150 medici militari in piena notte a Wuhan, che è la città focolaio del virus, su un aereo da trasporto di truppe, appunto per fare una serie di verifiche. Mentre i casi accertati di contagio sono saliti a 827, le vittime sarebbero 26, si parla anche adesso per quanto riguarda il resto del mondo, due casi accertati negli Stati Uniti, ci sono anche due casi confermati in Francia, poi in Messico alcuni casi, in Giappone, in Corea del Sud, in Nepal e poi si temeva due giorni fa che ci fosse anche un caso sospetto di una donna a Bari, ricoverata in un ospedale di Bari, però è stato escluso. Poco fa si parlava anche di questo caso di una donna di Parma rientrata da poco di Wuhan, però pare che sia un'influenza del virus di tipo B, quindi ci sarebbe un sospiro di sollievo in questo caso, almeno per quanto riguarda l'Italia. Allora, poi ci sono per esempio in Cina McDonald's e Disney anche che hanno preso misure, hanno chiuso i loro negozi in alcune città. Farei sentire adesso la responsabile, portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, a proposito dello stato dell'arte e anche della decisione di ieri dell'OMS dopo questa riunione straordinaria di rimandare, perché dice troppo presto parlare adesso di emergenza sanitaria internazionale. L'ha intervistata per noi Rosanna Magnano, sentiamo. L'emergenza non è globale, ma è comunque un'emergenza molto seria in Cina e la Cina sta prendendo molto seriamente la risposta a questa emergenza, mettendo in piedi una serie di misure per contenerla il più presto possibile. Da parte sua l'OMS sta lavorando a stretto contatto con le autorità cinesi e anche con degli altri paesi, in modo soprattutto da sapere di più a proposito di questo virus, come si comporta, in maniera proprio da poter limitare la trasmissione il più presto possibile. Quali sono le raccomandazioni per i governi allo stato attuale? Il virus sicuramente può viaggiare a velocità molto alte per la natura globale dei viaggi. Ci si aspetta un caso in Europa. Quindi è fondamentale che tutti i paesi europei siano preparati nella miglior maniera possibile. Non sappiamo ancora fino a che punto si può trasmettere da uomo a uomo e non sappiamo quanto anche è severo. In questo momento circa un quarto dei casi riportati hanno avuto degli sviluppi più severi della malattia, ma molti casi sono ancora non severi. Però questo può cambiare nel momento in cui osserviamo l'andamento della malattia e quindi le persone che purtroppo possono morire a causa di questa malattia possono aumentare. Quindi sicuramente è uno scenario ancora difficile da definire, proprio perché molte informazioni non sono conosciute. È molto probabile che ci sarà a stretto giro una missione da parte dell'OMS proprio perché insieme alle autorità cinesi si possa investigare ulteriormente sia l'origine del virus sia come si trasmette, quindi il comportamento, per arrivare a contenerlo il più presto possibile. E allora coinvolgo su questo il professor Fabrizio Pregliasco dell'unità di virologia dell'Università degli Studi di Milano. Professor Pregliasco, buonasera, bentornato. Eccoci qua, buonasera, un piacere essere con voi. Reciproco. Allora, quindi dice questa la portavoce dell'OMS Europa, è uno scenario ancora difficile da interpretare, non sappiamo bene ancora quale sia la gravità, la velocità di diffusione, anche il modo in cui avviene. Per esempio, qualche ascoltatore chiede, visto che avevo specificato anche ieri questa cosa dei serpenti, come ci può essere stato il passaggio dai serpenti agli esseri umani? Il coronavirus purtroppo li conosciamo bene e sono presenti e infettano molte specie animali, molti mammiferi e quindi è un qualcosa che abbiamo già visto addirittura per la SARS, perché il coronavirus della SARS era legato a delle civette e addirittura anche un altro coronavirus che ci inquieta e continua a inquietarci, quello cosiddetto della sindrome medio orientale, dove lì sono stati individuati i dromedari come causa. Quindi sono virus che hanno la caratteristica appunto di potersi in qualche modo farsi infettare uno stesso animale con stipiti diversi e lì rimescolarsi, appunto ricombinarsi e provare variazioni sul tema che, se sono efficaci nel diffondersi, allora possono determinare ciò che abbiamo. Io vedo in positivo ciò che sta succedendo oggi, l'avete ben detto, un'iniziativa anche senza precedenti in della Cina. Una trasparenza maggiore, sicuramente i casi censiti sono sottostimati rispetto a quelli reali perché non tutte le forme sono così pesanti, quindi è probabile che qualche soggetto non abbia, un paziente non abbia ricorso nemmeno a cure diciamo stringenti, però la dimensione è molto piccola. E quindi credo che le esperienze che abbiamo fatto nel passato riguardanti, come dire, la SARS, l'influenza aviaria, l'H1N1, ci permettano oggi, rispetto al secolo scorso e ancor prima, dove non avevamo questa capacità e questa sensibilità di individuare in fondo un ago nel pagliaio, perché polmoniti in mezzo all'epidemia influenzale che c'è in corso anche in quei territori, vuol dire avere questa sensibilità e quindi questa capacità, a mio avviso, di poter contenere complessivamente la dimensione. Per quello che l'OMS in due giorni, per quanto si è saputo anche di serrata discussione, non si è sbilanciata rispetto a una dichiarazione formale di rischio sanitario a livello mondiale, proprio perché gli effetti già sicuramente che ci sono in Cina dal punto di vista economico verrebbero, no, a livello planetario ancora più stravolgenti. Però ritengo che la capacità, ad esempio, già del sequenziamento e dell'individuazione appunto dell'origine, grazie a una disseminazione di informazioni in tutti i laboratori, mi fa pensare, non dico di essere ottimista, ma di vedere una possibilità di controllo e di limitazione del danno, anche se, come sempre giustamente avete detto nel corso dell'intervento iniziale, che forse dei casi secondari arriveranno anche in Italia, ma questo credo che sempre nell'esperienza del passato potrà essere affrontato in modo, come dire, aggressivo, in un senso positivo, di controllo e di limitazione della diffusione. Professor Pregliasco, tra l'altro, a proposito dei vaccini, vedevo una dichiarazione di uno dei massimi esperti di immunologia, Anthony Fauci, direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive del National Institute of Health, che è l'agenzia del governo degli Stati Uniti responsabile della salute pubblica, ha detto che la corsa per mettere a punto un vaccino contro il nuovo coronavirus è iniziato, sono almeno 5 i team internazionali coinvolti nell'impresa, con l'obiettivo di bruciare le tappe, dice, per ottenere il prima possibile quello che normalmente richiede almeno 2 o 3 anni di lavoro. I primi test sull'uomo potrebbero arrivare in tempi record, meno di 3 mesi, a fronte dei 20 mesi del vaccino sperimentale, per esempio per la SARS. Sicuramente oggi le tecniche di biologia molecolare ci permettono di identificare stipiti, come diciamo, ovvero sequenze e virus o parti di virus che possono dare una risposta protettiva. Di sicuro i tempi, a mio avviso, non potranno essere strettissimi, perché considerando anche che strategicamente questo vaccino dovrebbe essere usato in grandissima scala, in enorme scala, dei dati sulla sicurezza, sull'efficacia devono comunque essere fatti, al di là di meccanismi di registrazione che possono seguire ovviamente anche un percorso più facilitato. Però in considerazione di una malattia che ad oggi non ha quella mortalità, per fortuna, per esempio come Ebola, ci pone di fronte a questa esigenza di fare una valutazione rischio-beneficio nella somministrazione su mega scala di tante dosi di vaccino. Quindi sicuramente la guerra inizia con i metodi storici del passato, dei promessi sposi, dell'isolamento, dell'individuazione dei soggetti che possono sviluppare la malattia, e quindi con interventi che necessitano ovviamente un intervento istituzionale, ma anche una responsabilizzazione di chi, evidenziando dei sintomi sospetti, si rivolga rapidamente, certo, alle strutture sanitarie. Chiaro. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, grazie molte per il suo intervento. Arrivederci e buona serata a tutti. Viabilità. In cima a una montagna innevata o in attesa della prossima onda, ovunque ti portino le tue passioni, seguile a bordo di BMW X3. Il SUV disponibile in versione benzina, diesel o plug-in hybrid è pronto a farti vivere le tue passioni con un bonus di 5.000 euro se permuti la tua auto. Offerta valida fino al 15 febbraio su vetture disponibili a stock. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con i fatti principali. Roberto Giordano sempre con voi. Ritorniamo a parlare dell'inchiesta sull'omicidio del personal trainer del 24 anni Luca Sacchi. Vi ricordate, è avvenuto a Roma il 23 ottobre davanti a un pub in zona Colli Albani. Ricorderete che la fidanzata della vittima, Anastasia, aveva dato inizialmente una sua versione, quella secondo la quale Luca sarebbe stato ucciso nel tentativo di difenderla da una rapina finita male. Versione che però non aveva convinto gli inquirenti, in una vicenda che era piena di punti oscuri. La procura di Roma quindi ha impiegato 3 mesi per chiudere le indagini, ma la svolta era arrivata quasi subito, comunque, quando polizia e carabinieri arrestarono gli autori dell'omicidio e inserirono gli inquirenti questa vicenda in realtà in un contesto legato a una compravendita di sostanze stupefacenti. Ora arriva un'ulteriore svolta, cioè tutti i 6 indagati per questo omicidio, compresa Anastasia, la fidanzata, sono stati rinviati a giudizio immediato e il processo dovrebbe esserci il prossimo 31 marzo. Su questo saluto Rinaldo Frignani, giornalista di Corriere della Sera, che ha seguito questa vicenda dall'inizio. Rinaldo, questa è la novità, insomma, di questo rinvio a giudizio, il processo il 31 marzo. Sì, buonasera a voi. Sì, c'è questo rinvio a giudizio, rito immediato e contestazione ai tre accusati di omicidio, dell'omicidio di Luca Sacchi, e anche della premeditazione, che è una cosa, diciamo, è un aggravante che fino a questo momento non c'era e che invece in questo caso viene contestata ai tre, ai due, diciamo, esecutori materiali. Sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, no? Paolo Pirino e al giovane che ha consegnato loro la pistola, Marcello De Propris. Esatto, il quale oltretutto è anche accusato di reati di droga insieme ad Anastasia, a Giovanni Princi, al padre per Armando, aver partecipato, no? Esatto, per aver partecipato alla trattativa, perché ha preceduto l'omicidio di Luca Sacchi, i famosi 15 kg di marijuana per 70.000 euro. Che erano nello zainetto di Anastasia. Però, Rinaldo, allora, quindi si tratterebbe, secondo inquirenti, di un omicidio premeditato, quindi organizzato in precedenza, e non di una azione, di una reazione così improvvisa, no? Spontanea. Allora, però, la domanda da farsi, viene così da farsi normalmente, è perché avevano già deciso di uccidere Luca? Questo è stato chiarito? No, questo non è, per il momento non è stato chiarito. Bisogna vedere se la premeditazione è legata al fatto di presentarsi a un appuntamento, sapendo che la trattativa che loro avevano organizzato, in teorica, diciamo, non ci sarebbe mai stato poi una consegna di droga, uno scambio di soldi, ma ci sarebbe stata una rapina, in quanto loro comunque si presentano con una pistola e una mazza da baseball, quindi consapevoli di andare a commettere un altro tipo di reato. Quindi di voler invece rubare questi 70.000 euro che aveva Anastasia nel zainetto senza dare in cambio la droga. Questa potrebbe essere la premeditazione, non proprio l'omicidio di Luca. E quindi che la vittima potrebbe essere stato chiunque avesse reagito alla rapina, insomma, in quel caso. In questo caso è stato Luca intervenuto per difendere la fidanzata che veniva colpita e aggredita, insomma, dai due che poi sono trasformati in killer. Senti, Rinaldo, comunque la posizione di Luca resta quella dell'unico che era ignaro di tutta questa faccenda al momento? Col passare delle ultime settimane, quello che era emerso con un po' più di chiarezza con l'avanzare delle indagini, a questo punto appare veramente così, cioè proprio un ragazzo quantomeno al corrente forse di quello che faceva la fidanzata, ma non complice e anzi critico nei confronti della fidanzata. E ciò non toglie che comunque quella sera è intervenuto per difenderla, però tutto quello che traspare, insomma, anche da quello che è uscito negli ultimi giorni fa apparire appunto un ragazzo estraneo al traffico di droga. Luca Sacchi, insomma, vedremo che cosa succederà a partire dal processo del 31 marzo. Grazie Rinaldo Frignani del Corriere della Sera, buon lavoro Rinaldo. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Invece per il calcio, aggiornamenti in sintesi dal nostro Giovanni Capuano. Brescia-Milan, come sta andando Giovanni? Eccomi Roberta, secondo tempo che è iniziato da 5 minuti e 40 secondi, parziale 0-0, è il Brescia che prova ad attaccare con maggiore continuità in questa seconda fase di gioco. Primo tempo che avevamo raccontato, molto equilibrato, vi avevamo detto di quelle due occasioni, una per Bennacer e una per Ibrahimovic. Nel primo tempo ha giocato in realtà meglio il Brescia a livello di costruzione, ma le occasioni le ha avute soprattutto il Milan, e ne ha avuta una clamorosa al 40esimo del primo tempo, un'occasione che si è letteralmente divorato, porta praticamente vuota Zlatan Ibrahimovic, che è stato innescato da un traversone dalla sinistra di Theo Hernandez. Lo svedese in anticipo sul difensore e sul portiere aveva praticamente davanti la porta vuota e invece ha messo clamorosamente fuori. Sbaglia raramente in carriera Ibrahimovic, questa sera Brescia ha sbagliato. Pochi istanti fa è stato il Brescia ad andare vicinissimo al vantaggio con una mezza rovesciata di Torregrossa, Donnarumma fermo, palla che si è persa a mezzo metro dal palo. 0-0 quando siamo nel settimo minuto. Grazie Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo lo sa che io anelo sempre il sole, il sole, non sono l'unica, c'è bisogno ancora di pioggia, forse sì? Per ma le guarda, polveri sottili? Ci sarebbe, volendo dirla tutta, quest'inverno insomma non è che stia facendo troppo la voce grossa ultimamente, no, anzi ti dirò che in tutta Europa, a parte la Spagna che negli ultimi giorni ne ha visti tutti i colori, però in mezza Europa, anzi anche più di mezza, l'inverno in realtà non dico che non si sia fatto ancora sentire, ma quasi, abbiamo temperature sopra la media nel nostro continente quasi dappertutto, anche in Italia freddo non fa e non arriverà, forse a te farà piacere, grande freddo non arriverà, però weekend molto variabile, in realtà nel weekend avremo a che fare con parecchie nuvole, poco sole, domani al centro nord anche delle piogge non molto forti, interessano principalmente la pianura padana tra stanotte e domattina e le regioni tirreniche fino ad arrivare alla Campania, però in realtà appunto precipitazioni non particolarmente intense. Poi domenica al nord un po' migliora, invece la variabilità interessa più il centro-sud, ancora una volta con precipitazioni non così insistenti, quindi insomma weekend senza infamia, senza lode, e ti ripeto, per come la vedo io, questo inverno insomma potrebbe far qualcosa di più, però molti sono contenti che stia facendo poco. Da dire che da un punto di vista dell'inquinamento, per fortuna un po' la situazione è migliorata e queste nuvole del weekend ci aiuteranno a non far salire troppo l'inquinamento. E va bene, e accogliamole allora con favore. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao caro Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Brevemente ci aggiorniamo alle 22.